Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, Oscar, eh? È venerdì. No, ma poi vedi la grande saggezza del calendario liturgico. Io non sono troppo cosa credente. Cosa hanno previsto per questo venerdì? Ma non ci si crede. Io quando sono andato a vedere stamattina ho detto, ma tu guarda, ho giunto le mani, ho piegato le ginocchia. Questo, a questo crediamo tutti. L'atteggiamento ora... No, non hai capito però, perché ho giunto le mani, nel senso che sì, le palme però, sto facendo vedere che non erano giunte, le palme erano giunte in questo senso qua. Ah, perché oggi tra i santi c'è Sant'Tiziano. Non ci credo, dai. C'è no. Sant'Tiziano di Brescia, vescovo di Brescia. Tiziano. Pensa che l'urna è in piazzetta Tito Speri, non so se tu hai presente Brescia, sì, in piazzetta Tito Speri, c'è l'urna è nell'angolo oggi della piazzetta dove c'è la fontana. Ma allora, credi che i magistrati ne terranno conto oggi? Ma è l'Altissimo che induce con questo messaggio i magistrati a pensare, un faro, l'Acli che si muove, i Boy Scout, le preghiere dei Boy Scout, ma non senti il popolo orante. No, davvero, adesso io non voglio la mia un po' ironia, è incredibile, ma quando ho letto che oltre all'imperatrice Cunegonda, naturalmente un'imperatrice fatta santa, ma abbiamo imparato a capire coi santi che insomma anche la Chiesa è donna di mondo, quando ho visto Sant'Tiziano di Brescia sono piegato, vedi il segnale. E poi dopo quando ho letto l'intervista di Miguel Gotor ho detto, Miguel Gotor sei un ateo, guarda chi che santo è oggi lui Sant'Tiziano. Che invece è la storia della Chiesa, lo storico. Va bene. Adesso al di là di questo, arriva comunque... un saluto da Tiziano. Grazie Oscar, nessuno si ricorda mai di noi. No, Tiziano invece, saluta. Oggi temo che siano oggi, un bel sì, po' a pronunciare questo nome. Io tra l'altro ho conosciuto anche un Tiziano alla scuola elementare, era il mio quartiere. Vabbè, ma Tiziano non ma sai perché nome, era invidiato? No, era invidiato perché lui era dell'ondata. Nel mio quartiere c'erano ancora gli immigrati, quelli del Polesine, Veneti, soprattutto del nord, insomma, non era ancora Mirafiori, ma lo dico solo per chi non conosce Torino, e lui aveva questi fantastici occhietti celesti, mm-hmm, era magro, e incredibilmente all'elementare, noi all'elementare avevamo le sezioni ancora separate, non so voi, mm-hmm, dal punto di vista del genere, no, noi sì, solo la scuola media venne l'impatto con le portatrici di le ormoni. Le medie le ho fatte ai salesiani solo maschili. Ah ecco, quindi tu anche alle medie. No, alle elementari c'erano le compagnucce. Ah, quindi tu hai fatto un passo indietro, no? Per me il muro degli ormoni avvenne alle scuole medie. Ma pensa, questo Tiziano, pure con le sezioni separate, ed erano separate nel senso che erano proprio due ali opposte della scuola Vidari, che sta di fronte alla Fiat, e c'erano le bambine che venivano a vedere Tiziano perché aveva gli occhi celesti. Me lo ricordo ancora perché io mi chiedevo perché, ancora nella mia ingenuità, al riparo dal mondo. Va bene, pensa che oggi nel 2002 gli svizzeri si decidono finalmente a votare un referendum, infatti forse vale la pena che entriamo nell'ONU, ma prima non c'erano entrati. Talvolta le conferme della saggezza degli svizzeri mi sembrano evidenti. Tra chi compie gli anni oggi, Occhetto. E poi in linea di continuità Thomas Milian e Alemanno, che io un po' tendo a ad accomunare per certi versi, non voglio evitare di spiegare perché, ma chissà perché un po' sì. Allora diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Effettivamente questa inchiesta Consip, oggi c'è l'interrogatorio a Tiziano Renzi, Babbo Renzi. Beh, vorremmo capire anche da voi se avete capito qualcosa, se avrà ripercussioni anche nei confronti del governo. C'è una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello sport Luca Lotti, che verrà quindi immagino calendarizzata e votata. Tra l'altro c'è stata la condanna in primo grado a Denis Verdini, anche lui 9 anni per bancarotta. Bancarotta fraudolenta al credito cooperativo fiorentino. Esatto. E un Renzi che continua... Non c'entra niente, sì, ma il giorno in cui il vicepresidente di Unicredit, per chi segue le vicende bancarie, l'immortale praticamente Palenzona si dimette dalla vicepresidenza di Unicredit. Palenzona stato attraversato da vicende e dubbi giudiziari nella sua vita di banchiere, la cui centesima parte avrebbero stroncato chiunque. Ci sono degli allineamenti astrali nel mondo di questa Italia, sì. No, soprattutto sono paginate e paginate. Il contraccolpo politico evidentemente ci sarà, tanto che alcuni big pare che vogliano consigliare Renzi a rinviare le primarie. Franceschini, Fassino. Perché ricordiamo chi Martina. Ci ascolta che nelle primarie, se prima era dato per scontato nessuno supera il 50%, a votare poi non conta che chi ha vinto è andato oltre il 50% nella scelta degli elettori alle primarie, ma si vota in assemblea, cambia, per statuto cambia la regola di come si sceglie il segretario. Diciamo che un qualche ripercussione c'è, infatti Renzi che continua un tour politico al sud in questi giorni, non dice pubblicamente se non quella frase che ha detto domenica, fiducia alla magistratura, però... Come dire, tutti retroscena. Ieri ha rilanciato il tweet di Lotti, come hai correttissimamente riportato prima in rassegna stampa. Però non dichiara nulla, ma i retroscena raccontano di un Renzi anche, ovviamente, che si sente un po' sotto assedio. Ecco, è inevitabile tutta questa vicenda che abbia delle ripercussioni politiche o no. Tu hai notato? Sì. Insomma, il che titolo cosa? Del giornale, a me oggi questa riflessione mi ha indotto, il titolo del giornale, sì, diretto alla salute, hai notato... Il titolo del giornale, per chi non lo avesse sotto mano, non lo comprerei, eccetera, è questo: Papa Renzi e caccia all'uomo. Allora, giornalisticamente l'espressione caccia all'uomo era legata più... No, insomma, dà chiaramente l'idea a chi ascolta di dire, guardate, un eccesso. La caccia all'uomo è la semplificazione quando la gente dice linciamolo. Ecco. Da parte del giornale, questo titolo secondo me va sottolineato. C'è un avvicinamento, una sorta... Berlusconi ha criticato, ha parlato di accanimento giudiziario. Insomma. È evidentemente un titolo molto soppesato che dà l'idea, per come dire, Matteo, Tiziano, noi ci siamo. Tanto per. Noi siamo qui. Noi siamo qui. Allora, comunque, chiamateci su questo se volete. Però noi, Oscar, dobbiamo proporre una sorta di telenovela. Una telenovela a puntate. Closing. No, ma lascia prima quella. Quella è una soap, proprio è una sì, cosa. Esatto. Quella è una roba da 8800 puntate. No, una telenovela con il massimo del rispetto, dico, cioè ogni delle gocce distillate di puntate ogni tanto con colui che ogni tanto chiamiamo, il presidente di Riscossione Sicilia, l'Equitalia siciliana, Antonio Fiume Freddo, che è con noi, è tornato con noi. Fiume Freddo, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo raccontato la scorsa settimana, credo, di una Riscossione Sicilia che ha altri tipi di problemi, insomma. Però qui dobbiamo riannodare un po' i fili del discorso, perché ricordiamo una cosa: Fiume Freddo divenne anche famoso quando un anno fa circa denunciò una cosa riguardante i deputati siciliani che vanno chiamati così. Cioè, che cosa denunciò lei? Dissi allora pubblicamente che all'interno di Riscossione c'erano delle manine che aiutavano alcuni deputati regionali a risolvere in maniera non lecita i loro problemi col fisco, a sbianchettare o a ripulire alcune cartelle. Lo dissi e ovviamente lo denunciai, perché non basta dirlo. Ieri la Procura della Repubblica di Catania ha chiuso delle indagini, le ha concluse. Queste indagini per abuso d'ufficio riguardano la responsabilità di 9 dipendenti, funzionari e dirigenti di Riscossione Sicilia che effettivamente, stando all'accusa, avrebbero aiutato alcuni parlamentari, ovviamente a loro insaputa, a risolvere i loro problemi. Notate l'ironia, a loro insaputa. Questo è il paese delle proprietà di insaputa. Ma non è ironia, delle dichiarazioni dei parlamentari regionali rese ieri dall'edizione di Repubblica di Palermo, su cui le abbiamo trovate, esatto. E confermano tutte che non è un'illazione ironica, non ne sapevano nulla, per carità. Stia attento a Fiume Freddo, perché lei, che denunciò a suo tempo che molti deputati, cosa verità, hanno dei debiti col fisco che non vengono saldati, è stato per questo, per alcune dichiarazioni, denunciato dall'Assemblea regionale siciliana per qual è il reato? Oltraggio al corpo politico. Oltraggio al devo corpo dire, politico. Devo dire che veramente considero un vanto aver oltraggiato alcuni ovviamente rappresentanti di questo che sarebbe il più vecchio Parlamento siciliano, e infatti ho dedicato l'esito di questa indagine ieri proprio al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Ardizzone, il quale non perde occasione per esercitarsi nella difesa dell'indifendibile, no? Per cui consideri che uno dei deputati che avrebbe beneficiato di questo aiutino ha detto, anziché difendersi, ha detto che la vera sporcizia è Fiume Freddo. C'è un'inversione del delle parti in campo. Sì. Ricordiamo che uno avrebbe goduto della cancellazione di un fermo amministrativo di un veicolo, se non sbaglio, la chiusura di una procedura esecutiva di un pignoramento immobiliare. Esatto, pur avendo debiti col fisco, cioè cose così. E ci sarebbe io Fiume Freddo lei non la capisco, cioè devo chiederle proprio una cosa, di spiegare ai nostri ascoltatori, perché questo onorevole Ardizzone, ma si metta in capo nei panni dell'onorevole Ardizzone, se per decenni no, Riscossione Sicilia non rendeva esecutivi i titoli dell'amministrazione pubblica per riscuotere il debito fiscale contratto da chi fa politica in Sicilia. Era una consuetudine, è diventata una legge di fatto. Perché lei vuole sovvertirla? Per quale motivo lei manca di rispetto agli eletti del popolo dicendo tu devi pagare le tasse come gli altri? Ma ha ragione, non è una tradizione. Lei viene meno a un fondamento quando una consuetudine inviolata per decenni diventa legge. Non lo sa lei questo? Lei ha ragione, io ne sono consapevole. L'onorevole Ardizzone mi fa una grande simpatia. Io avrei reso la maestà e avrei violato il catechismo, esatto, della casta, no? E quindi una sorta di statuto dell'arroganza, per cui chi lo viola è fuori dal sistema. Però voglio dire, esiste anche la nostra coscienza, sì, no? Chi proviene da una cultura laica e liberale sa cosa significa, ed evidentemente non è più sopportabile amministrare una società che ogni giorno pignora lo stipendio ad una trentina di siciliani, i quali magari hanno stipendi da fame, e poi si ferma davanti all'indennità dei parlamentari. Questo è vergognoso. Adesso abbiamo, come dire, andremo e continueremo ad andare avanti, c'è il vaglio della magistratura, ma al di là del vaglio della magistratura c'è un problema etico, cioè non è possibile che di fronte a cose così gravi poi segua, dopo la reazione del primo momento, un silenzio assoluto, un silenzio da sagrestia, proprio si sente volare Mosca. Significa che la casta tenta ancora di arroccarsi per gli ultimi giorni, ritengo, in questo fortino, perché quello che sta succedendo nel paese, e che viene peraltro poi come sempre amplificato in terra di Sicilia, credo che non dia scampo a nessuno. Poi per vedremo dire, quale sarà la soluzione. Certo, per dire un altro numero, Fiume Freddo, ma ci corregga se è errato, se non sbaglio sono stati 390.000 euro i debiti col fisco che sarebbero stati agevolati da questi dipendenti infedeli, ecco, secondo l'accusa. Ecco sì. Che succede? Che succede a questi dipendenti? Certo, il garantismo, bisogna provare tutto, eccetera, ma che succede? Vanno a casa. No, vanno a casa quando? Quando? Ecco, c'è una legge che li garantisce, c'è un procedimento disciplinare che immagino chiederanno sia sospeso nell'attesa del processo penale, però al di là di questa vicenda dei nove, noi abbiamo già iniziato delle procedure di licenziamento. Lei pensi che abbiamo avviato una procedura di licenziamento per un avvocato interno che in un anno ha fatto una sola pratica. In un anno ha saltato una pratica. E voi gli avete contestato che era troppo. E noi gli abbiamo detto che a questo punto non ha bisogno dello stipendio e può andare a casa. Ma così come ieri è successo un fatto gravissimo, cioè dopo la notizia dell'avviso di conclusione per i nove indagati, alcuni dipendenti della sede di Catania di Riscossione Sicilia si sono ammutinati per solidarietà con gli indagati, sono andati a casa. Ovviamente li abbiamo denunciati. Come si sta? Noi sorridiamo, ma è una cosa che sembra raccontare. Come succede in certi quartieri, no? Dove interviene la polizia e si difende dalla parte del criminale, no? E allontana la polizia. Cioè, qui siamo veramente all'assurdo. Lo Stato nello Stato, con regole proprie. Sì. Ammutinato. Guai a violare questa condizione di toccabilità, assolutamente. Quindi avete denunciato anche i dipendenti che per motivi strani hanno sospeso il lavoro. Incomprensibile. Solidarietà con gli indagati, se ne sono andati a casa, quindi hanno interrotto un pubblico servizio. Ma al di là di questo, veramente io dico, ma ai loro figli cosa hanno raccontato tornando a casa? cioè che il papà e la mamma sono solidali con gli indagati. Si può augurare che gli indagati risolvano ovviamente i loro problemi. Però lei ma lei capisca loro, ma adesso questo al di là dell'ironia, io poi temo che non siano tutte, per così dire, trame di complicità. Il punto è che io poi mi pongo spesso la seguente domanda: di fronte a questo esplicito e diffusa atteggiamento, che non è mica solo in Sicilia, per via della Sicilia, della storia della Sicilia, perché come si vede nei posti dove intervengono le procure sull'assentismo di massa è la stessa cosa, perché molti poi pensano, ma se molti di noi devono il posto al politico, alle relazioni e così via, e quello è il motivo vero per cui ho trovato un lavoro, se io mi metto a violare le regole implicite, anche se sono fuori dal codice penale, del diritto amministrativo e così via, io vengo meno al fatto che poi mio figlio chi lo piglia? Ecco, io penso che molto si spieghi anche così, cioè quelle persone ieri avranno voluto manifestare, non tanto esplicita, non lo so, in alcuni casi magari sì, solidarietà collusiva a chi viola i propri doveri chiudendo le pratiche senza estensione del debito al deputato regionale, ma perché dice io devo segnalare a chi mi ha messo qua che io continuo a essere fedele. Ecco, questo io temo che sia il punto di fondo. È così, la penso come lei, ed è ancora più grave perché è un'obbedienza, una soggezione di sistema da che è quella più difficile da combattere, no? Bisogna sradicarla, perché bisogna liberarli questi poveretti, no? Dalla necessità di obbedire, cioè dalla sicurezza, insomma, bisognava mostrare che loro stanno da quella parte. Quello è il punto. In ogni caso, fiume freddo, non lo so, alla prossima puntata, che dobbiamo dirle? Prossima penso che sarà quella in cui, visto che lo ha chiesto il presidente Arrizzone per la seconda volta, ha minacciato che non voterà la finanziaria il Parlamento, la maggioranza, se non mi caccerà via il presidente della regione. Immagino che la prossima sarà, ci rivedremo. Ci rivedremo forse per commentare la ex, ma insomma con piacere. Non lo so, vediamo, speriamo di no, e staremo a vedere. Intanto... Non dico sa benedica, perché non vorrei essere equivocato. No. Grazie ad Antonio Fiume Freddo, presidente di Riscossione Sicilia. Pazzesco. L'ammutinamento, no, chiamato, sono... definito così dal presidente, ammutinamento. Poi, i politici che mi insultano perché sono io quello che invece, ci sono delle cose. Cioè, l'Italia è diventata un paradosso permanente. Per così. Comunque, caro Oscar, sai che l'Unione Europea vuole rispedire a casa 1 milione di migranti, perché questa è la cifra di coloro che non avrebbero il diritto a rimanere qui, non hanno lo status di profugo o rifugiato. Sui 2 milioni arrivati in questi anni, 1 milione anche di più dovrebbero essere rimandati a casa. Allora, tenete in mente questa cifra. Invece racconteremo tra poco di Firenze, una situazione un po' strana. C'è un'occupazione che va avanti da 40 giorni di una novantina di somali in un palazzo di gesuiti, col paradosso che il responsabile gesuita li difende il diritto. Non possiamo semplicemente dire, in nome della legalità che esiste, quindi del diritto poi a non poter occupare uno stabile eccetera, però in nome di questo non possiamo dire fuori. Esatto. Padre Egno sarà con noi tra poco, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui alle 8:41 minuti. Allora, vogliamo sentire Isidoro da Prato che ci ha chiamato. Buongiorno Isidoro. Buongiorno, complimenti per la trasmissione ad entrambi. Vorrei dire solamente una cosa, ricordare a tutti i radioascoltatori che hanno su questa da voi ascoltato, parlato della discussione di Sicilia anche in altre occasioni. Sì. E ricordare soprattutto a Giannino che è un argomento che riguarda esclusivamente la regione di Sicilia, perché ricordiamo, Discussione Sicilia non è nel Equitalia. No, infatti va benissimo a sottolineare. È l'equivalente di Equitalia in Sicilia. Effettivamente da ricordare, perché è l'unica regione in Italia che ha deciso di non utilizzare Equitalia. E quindi questo va chiarito bene, perché fare tutto del buon fascio... No, abbiamo detto, è l'equivalente di Equitalia, nel senso tant'è che... Tant'è, Isidoro, che quando io spesso, tirando fuori questi argomenti, dico... Questo è purtroppo diventato lo statuto speciale, cioè uno scudo di regimi e di privilegi e di sprechi, e esattamente questo voglio dire. E dico purtroppo, perché non è che generalizzo che tutti i sostenitori dello statuto speciale nella storia questo volevano. Di fatto, anche nel regime di riscossione, che come dice lei è separato da quello nazionale, ecco che cosa poi produce. Sentiamo anche Enrico che ci chiama da Milano. Buongiorno Enrico. Buongiorno, io invece volevo parlare della questione del padre di Re. Sì, sì. Con tutto il rispetto che ci possa essere, perché chiaramente non sono cose piacevoli, Però io mi sono domandato una cosa, io ho un'impresa edile, lavoriamo da 35 anni e cerchiamo di stare in piedi, in un modo o nell'altro, e cerchiamo di specializzarsi, quindi per contattare degli enti, cerchiamo di essere sempre più specializzati, perché mica ti ascoltano tutti. Allora io mi sono fatto solo una domanda, a che titolo il padre di Renzi parlava con l'amministratore delegato del più grande gruppo di Stato di appalti in Italia, a che titolo? Questa è la cosa che uno si deve... Intanto bisogna provarlo, se si sono incontrati, oggi c'è l'interrogatorio. Però lei dice, se fosse così, a che titolo? Beh, una domanda, credo, è la prima che i magistrati nel caso che i magistrati faranno. Sicuramente sì. Enrico, questa domanda la suggeriamo ai magistrati che oggi interrogheranno Tiziano Renzi. Di sicuro però, cioè, che capo azienda fosse un ex assessore toscano, no? Che quindi ci fosse una conoscenza, questo una conoscenza, si capisce anche dagli atti che non riguardano le ipotesi di reato che abbiamo letto, questo è un fatto notorio. Non rispondiamo noi, anche perché sennò qualsiasi cosa si dice. Grazie Enrico. Allora, vogliamo parlare di quello che succede a Firenze. Abbiamo detto prima, a Firenze c'è un'occupazione che dura da 40 giorni di una novantina di somali, ma ci saprà dire tutti i numeri esatti, padre Ennio Brovedani, gesuita. Buongiorno, buongiorno padre Ennio, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi, sì. Allora, sono 90 i somali, è giusto, è corretta la cifra? Ma io penso di sì, anche se non ho mai avuto occasione di verificarlo. Alcuni dicono che sono una sessantina. Nelle mie frequenti visite all'immobile occupato, vado lì giornalmente ogni due giorni, a me pare che siano più o meno quella cifra lì, anche perché hanno occupato tutte le stanze, dormono in 7-8 per stanza, ecco. Succede, padre Ennio, che c'è una sorta di curiosa, se ci passa il termine, situazione, per cui dalla diocesi, dal comune, magari ci sono dei silenzi, però l'idea è quella di dire, beh, insomma, è un'occupazione abusiva, non va bene, mentre in qualche modo lei dice no, però non va sgomberato, perché l'uomo deve venire prima di tutto, la tutela per degli esseri umani, è così sostanzialmente? Ma diciamo così che l'occupazione è abusiva. Ecco, quindi la legalità è stata palesemente infranta, e di questo sono consapevoli anche i somali, che tra l'altro sono anche vittime di certe strumentalizzazioni che io non comprendo, cerco di far comprendere loro di fare attenzione di fronte a queste strumentalizzazioni politiche che non ricercano il loro bene, ma cercano altri obiettivi. E quindi la legalità è stata palesemente infranta, ma una cosa è dire infrangere la legalità e un'altra cosa è intraprendere dei provvedimenti che abbiano poi come conseguenza un ulteriore svilimento della loro dignità. La legalità è un principio importante, ovviamente, perché senza legalità non c'è integrazione, neppure convivenza civile. L'integrazione, come noi sappiamo, è un inserimento, e l'inserimento è un turbamento, quindi crea dei conflitti, soprattutto dei conflitti di interesse. Eccolo che qui, in queste situazioni di conflitti, deve intervenire esattamente la politica, perché la politica è l'arte, diciamo così, del metodo. Lei non vuole l'intervento della polizia, della forza pubblica. Io voglio una soluzione ragionevole, in modo da convincere, ovviamente, i somali, che piano piano stanno convincendosi, però i processi sono più lenti, che sia una soluzione che sia rispettosa della loro dignità, in modo che non siano nuovamente loro essere vittime di un'azione violenta, perché la legalità deve essere in funzione della promozione umana, deve favorire la promozione umana e non deve avere come conseguenza quindi un ulteriore svilimento della loro dignità, perché poi alla fine saranno sempre loro ad essere vittime di tutto questo senza soluzione. Invece io ho chiesto del tempo, perché la fretta uccide l'empio, come dice un proverbio biblico, per cui del tempo, in modo che prevalga la ragionevolezza da tutte le parti, ovviamente, sia dei somali e sia anche delle istituzioni. Comprendo la difficoltà delle istituzioni, comprendo che devono risolvere ovviamente delle soluzioni, dei problemi immediati, molte volte anche urgenti, e non hanno a portata di mano la soluzione. Però la politica, come sappiamo, non si improvvisa, e anche i politici di oggi molte volte ho l'impressione che siano più ambiziosi che preparati. Ecco. per cui è una grande responsabilità questa che hanno. Guardi Padrenio, sentendola parlare io e Oscar Giannino qui, voglio dire, alziamo le mani, nel senso che voglio dire, è chiaro, è un punto di vista molto anche specifico, molto particolare, molto profondo, molto religioso anche, no, il suo, però insomma, come dire, sono parole scolpite, posso dire, siamo proprio scolpite, almeno questa è l'impressione che hanno fatto a noi due guardandoci mentre l'ascoltavamo, sia quella sulla fretta e l'empio, sia quella sui politici, l'ambizione e la preparazione, mentre lei riconosce che sono problemi delicati per cui ci vuole tempo e così via, però insomma ci sono sembrate proprio scolpite. Ecco questo, io molte volte i politici, anche i giovani politici, con tutta la buona volontà che hanno, dico sempre: ma perché non vi ritirate in un'abbazia per 2 mesi e vi rileggete la Repubblica di Platone? Non tanto il Vangelo quanto la Repubblica di Platone, vi segnerebbe tante cose nel gestire queste conflittualità e soprattutto la grande responsabilità nei confronti di questo esodo biblico nuovo, questa catastrofe umanitaria che coinvolgerà sempre di più le prossime generazioni e devono essere preparate per quello. Ma qui ne abbiamo parlato tante volte, anche da una Unione Europea che non è preparata a poi anche un'Italia non preparata. L'Italia che non fosse preparata, però io in questo la penso come il padre Ennio Provedani, aveva un senso nei primi anni 90. Noi sono oramai 25 anni che siamo diventati un fenomeno, no? Un paese che prima non aveva queste caratteristiche, una porta d'ingresso di una fiumana. Allora, dopo per 3, 4, 5, 6, 7 anni io capisco che l'Italia non fosse preparata. Se al 25esimo anno siamo sempre travolti dall'emergenza senza un sistema di integrazione, di coinvolgimento, con risorse adeguate, con finalità adeguate, criteri selettivi adeguati, vuol dire che c'è di peggio dell'impreparazione. Però, questo è il problema. Lei, Padrenio, si rende conto di dire delle cose che sono molto poco popolari, cioè la gente dice: beh, ma insomma è un'occupazione abusiva di persone che non sappiamo neanche se hanno il diritto di avere lo status di profugo o rifugiato. Certo, fuggono da un paese, la Somalia, che è un paese da anni devastato. E quindi per farla molto, come dire, con la voce del popolo, lei non dico difende una situazione di illegalità, ma giustifica una situazione di illegalità. Comprendo la loro posizione, comprendo la loro sofferenza quando mi sono trovato di fronte a questo esodo improvviso, all'invasione dell'immobile con masserizie, con materassi e reti, questo centinaio disperato. Ho fatto silenzio, li ho ascoltati, li ho guardati in faccia e ho chiesto loro semplicemente questo: sentite, lasciamo perdere la legalità, ma cerchiamo in questo momento così di osservare le regole più elementari per convivere un po' insieme e trovare insieme una soluzione. Sono stati rispettosissimi perché hanno occupato un luogo di culto con delle cappelle e con delle opere d'arte. Non hanno messo piede nelle cappelle, le hanno chiuse perché loro sono tutti musulmani. Musulmani. E questo mi ha impressionato, mi ha fatto capire che loro erano consapevoli anche di certi valori che volevano rispettare, pur non essendo i loro valori. E ho trovato loro degli interlocutori che mi hanno cambiato nel profondo, proprio in relazione alla sofferenza che loro hanno vissuto, perché loro sono le vittime di questa catastrofe umanitaria, appunto, ripeto, che le future generazioni dovranno prepararsi e prepararsi molto bene a gestire. E questo sentimento che mi ha detto: non posso irrigidirmi sulla legalità, non risolverei il problema, bisogna convincere e mai vincere, perché se io convinco creo un alleato, se invece vinco crea un frustrato che sente bisogno di rivalsa e quindi un nuovo nemico. E non è facile convincere. Senta, ma la diocesi adesso, perché la politica l'ha criticata, ma dalla diocesi cosa le dicono? Perché ha degli alleati oppure non tanto? Diciamo che la diocesi è già molto impegnata su molti fronti, anche l'arcivescovo è molto impegnato nella visita pastorale della diocesi in quest'anno un po' speciale, mi ha telefonato, io l'ho informato della situazione, ecco, più di così non vedo cosa posso fare in questo momento, anche perché la situazione è veramente complessa e anche perché va gestita momento per momento da qualcuno che faccia da interlocutore, e mi ha fatto molto piacere anche vedere che i somali stessi mi hanno chiesto loro stessi di essere loro interlocutore per la situazione, non tanto mediatore, ma interlocutore. E che vuol dire che un certo registro funziona meglio della stretta legalità. No, no, ma è chiaro. E dal sindaco Nardella? Dal sindaco Nardella è stato l'ufficio dell'assessorato che mi ha contattato, che ho incontrato. Ho cercato di spiegare loro appunto la situazione e di far comprendere loro qual è stata la mia politica, la politica di come affrontare appunto questo problema, perché appunto, come dicevo, la politica è l'arte del metodo, e sì, metodo sì, significa trovare la strada, e quando tracci una strada ci sono degli espropri e ciascuno deve rinunciare da una parte o dall'altra. Non si risolve il problema ancorandosi rigidamente alla legalità. Bisogna soprattutto considerarli, a prescindere dalla pregiudizialità, della loro possibile pregiudizialità, come degli interlocutori. E la loro grande rabbia in che cosa sta? Sta nel fatto che non sono mai stati contattati da qualcuno del comune, dall'istituzione, per vedere come risolvere il loro problema. Quindi si sentono considerati come degli animali. Questo sentimento io non posso trascurarlo. Non so dire se hanno ragione o non hanno ragione, ma è chiaro, però è un sentimento. È un sentimento che c'è. Senta, padre Ennio Brovedani, che ricordiamo gesuita, direttore dell'Istituto Culturale Stens, noi la ringraziamo e, grazie a voi, come sì, a tutte le storie, cercheremo di capire gli sviluppi e di seguirli, ecco. D'accordo, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie padre Ennio, grazie per essere stato con noi. Dirti che sono felice di aver consentito ai nostri ascoltatori di sentire come venivano scandite queste parole. E sai che molti, perché ovviamente molti criticano, molti dicono: fate parlare più spesso, date cioè, ogni tanto spazio a una persona così di buon senso ad ascoltare. D'accordo. Poi c'è chi critica invece che la melassa, sì, il buonismo, l'assismo. Va benissimo, ma è quegli urli lì sono dominanti, cioè ci sono tutte le serie in televisione. Finalmente, una voce fuori dal coro che è minoritaria, ma ci sta. Caro Oscar, con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè. Tutti al closing, tutti al closing. E guarda che questo è quello che canta, Milan, in questo momento. Tutti al closing, perché ma è partita la colletta. Come la colletta tra voi? La parte che manca ai cinesi, sì. La portate direttamente. Il miliardo che manca, i 950 milioni che rimangono per arrivare ai 950 Serra, euro. Serra, Michelino. Michele Serra, interista. Oggi ci ha fatto una manca bella. Bella, devo dire. Interista. Mamma mia, Michele, sei interista. A lunedì, dai. Ah.